società. E allora eccoci di nuovo in diretta per presentare l'iniziativa di questo pomeriggio al Lucernario Occupato, un'iniziativa che inizierà alle 17.30 e prevede la discussione di un libro che, scusate il gioco di parole, sta facendo discutere, diciamo, perché solleva una serie di questioni, insomma, che da un certo punto di vista ci portiamo appresso da tanti anni, insomma, rispetto anche alle diverse opzioni di carattere teorico attraverso le quali leggere il presente e ovviamente le dinamiche, le nuove dinamiche di accumulazione e valorizzazione capitalistica e ciò che poi da questi discorsi ne dovremmo ricavare in termini di discorso su organizzazione, obiettivi e strategie. Parliamo del libro di Carlo Formenti, Utopie letali, che dovrebbe essere proprio lui oggi presente all'iniziativa, vero Alessia? Sì, esatto. Ecco, per cui ecco, salutiamo Alessia che è con noi al telefono, quindi oggi ci sarà la possibilità, insomma, no, di ascoltare De Visu, insomma, Formenti e capire meglio, insomma, la sua impostazione. Intanto a te, Alessia, chiedo i motivi che vi hanno spinto proprio a scegliere questo testo come uno dei quali, insomma, uno sui quali far vertere una discussione oggi. Bene, il testo è appunto Utopie letali, è un testo che ha la possibilità di discutere molto, soprattutto riesce nel difficile compito di non solo parlare di argomenti molto attuali, ma anche di sviscerare, insomma, delle tematiche che vanno dall'analisi della della finanziarizzazione della democrazia, ma cerca anche di e della composizione sociale, cerca di dare anche delle non delle soluzioni ma delle indicazioni organizzative. A parte questo, riesce appunto nel difficile compito di lasciare anche dei dubbi, di porre degli interrogativi a chi lo legge, e quindi appunto aver letto questo libro per noi era un modo prima di tutto per approfondire alcuni argomenti, soprattutto per dare delle risposte a questi interrogativi insieme a lui oggi, e soprattutto insieme a tutte le persone, i compagni e le compagne e tutti quelli che sono interessati a questo libro. È un'occasione, secondo noi, di ragionamento, non solo appunto per chi lo sta invitando, quindi per l'università, per il Lucernario, per De Gage, chi si sta occupando, insomma, di questa presentazione, ma è un'occasione di discussione anche con la città, perché appunto un appuntamento pubblico che non vuole appunto dare molto spazio, insomma, alle polemiche, ma piuttosto approfondire degli interrogativi che pone questo testo, sulla tesi che comunque si basa molto sugli ultimi vent'anni, si può dire così, dei movimenti, no? Quindi di alcune anche strategie, ma di teorie, come dicevi prima tu, che sono state applicate poi negli ultimi vent'anni, e quindi li mette in discussione. Poi facendo anche, secondo me, cioè lui come, diciamo, autore, è un autore che comunque è un giornalista, ma anche un compagno che ha provato, si è vissuto, diciamo, in prima persona a quanto so le cose, anche che gli argomenti di cui parla nel libro, nel senso che è arrivato a questo, però ne parleremo appunto con lui anche questo pomeriggio, è arrivato a scrivere questo libro dopo una serie, insomma, di passaggi suoi e di altri libri che ha scritto, che a volte sono anche in contraddizione rispetto a questo. È come se avesse fatto un ciclo, no? di esperienze, di studi, di teoria, e poi è arrivato, insomma, non si può dire conclusione perché penso che scriverà altri libri, ma appunto non arriva, credo, dal nulla questo libro, ma ha fatto appunto parte da un percorso suo. È interessante anche per questo. Quindi l'iniziativa di oggi vuole essere una, come dicevo prima, un modo per parlare di alcuni temi dopo appunto questi mesi di forte mobilitazione che ci sono stati anche a Roma, e cercare anche di avere una prospettiva e discutere con la città di questo. Assolutamente, peraltro, insomma, credo che a voi abbia interessato, perché molti di voi, insomma, ancora sono iscritti ovviamente all'università, sebbene poi, no, ormai le modalità di vivere l'università sono notevolmente cambiate negli ultimi 20 anni, considerando, insomma, i legami tra università e mondo del lavoro, ma più che altro considerando la centralità della precarietà che investe entrambi, insomma, questi settori e luoghi produttrici a un tempo di formazione, di disciplinamento e abitudine al lavoro e alla precarietà stessa. Perché credo vi interessi in modo particolare? Perché Formenti attacca quello che negli ultimi anni è stato una sorta di paradigma, cioè quello di attribuire ai lavoratori della conoscenza una sorta di ruolo d'avanguardia rispetto alle lotte presenti e future. Da questo punto di vista, ecco, è una delle parti più interessanti, credo, del testo di Formenti. Lui legge invece processi di coagulo della composizione di classe decisamente alternativi a questi che puntano tutto sui lavoratori della conoscenza, anche perché sostiene lui, insomma, questi ultimi non è che negli ultimi anni abbiano rappresentato chissà quali punte elevate di conflittualità. Al contrario, invece, migranti, lavoratori della logistica, del terziario hanno dato prova di un livello di combattività decisamente più elevato. Sì, sì, hai ragione su quello che dici. Penso che e abbiamo provato anche a scriverlo nella presentazione del libro sulle locandine, insomma, che forse abbiamo anche un metodo un po' particolare nell'approcciarci ai progetti politici, nel senso che forse diamo troppo spazio a delle dicotomie, no? Cioè, nel senso, rendendo centrali determinati settori e non considerando che la realtà, secondo noi, è molto, molto composita ed è difficile attribuire più che, però io affermo questo, che sulla appunto sulle teorie rispetto a questo, quindi ad una, spero di essere chiara, insomma, in quello che dico, rispetto alle teorie che dicevano appunto di che è centrare il settore e i lavoratori della conoscenza, lo vedo principalmente, no, da stare nella realtà. Nel senso che la realtà in questo momento ci dice che è molto composita, è difficile individuare in una categoria prestabilita una possibile, insomma, categoria di avanguardia, come dicevi tu, e che può dare una direzione e può esprimere soprattutto una certa conflittualità nel paese. Penso che i lavoratori della conoscenza sono una parte di questo, ma non sono la parte centrale. Credo che non esista una parte centrale in questo momento. Come, diciamo, lavoratori della conoscenza, io mi sento una lavoratrice più che altro della conoscenza, una precaria che comunque ha fatto un percorso di studi universitari, è uscita dall'università e non sono sicuramente incazzata rispetto al fatto che non c'è una corrispondenza tra quello che è il mio percorso di studio e quello che farò probabilmente nella vita, e questo la, diciamo, forse questa, la massima espressione di questo c'è stato durante l'onda che anch'io ho vissuto, una, diciamo, stagione politica molto intensa secondo me, che ha visto migliaia di persone in piazza da parte degli studenti dell'università, perché quello che si stava facendo lo smantellamento dell'università è un diciamo ridimensionamento, una ristrutturazione dell'università stessa. Infatti adesso ci troviamo comunque con esperimenti, alcuni già avanzati, rispetto a appunto nuove forme di disciplinamento dentro l'università, che sono molto funzionali a quello che poi succede dopo l'università. Quindi il disciplinamento che esiste, le forme di valutazione attraverso i crediti, attraverso una imposizione del merito come dispositivo morale che afferma soprattutto dentro di noi il fatto che l'accesso appunto a determinati, a una vita migliore avviene attraverso questo, al fatto che tu non sei abbastanza capace o meritevole di meritarsi una vita decente, una vita dignitosa. Questa roba appunto parte all'università e poi si propaga anche dopo. Diciamo, se ci possiamo proprio chiamare così. È scomparsa Alessia. Pronto? Vabbè, proviamo a richiamarla, perché è brutto poi lasciare così in sospeso, eh? Allora, ecco, abbiamo recuperato la nostra interlocutrice, che aveva forse voglia anche di completare il suo discorso. Sì, niente, altre due parole, dicendo che appunto io credo che nell'ultimo anno, quello anche per ricollegare a quello che insomma facciamo dentro l'università e fuori, negli ultimi due anni comunque forse ci siamo resi conto, no, che quei privilegi a cui ci avevano abituato a pensare, no, di avere l'università, quello se è un po' caduto. E quello che sicuramente vogliamo affermare è che in qualche modo c'è una connessione sempre più stretta tra quello che c'è dentro l'università e quello che c'è fuori. Forse questo l'abbiamo affermato attraverso l'occupazione di studentati e quindi e anche l'occupazione di case in generale, cercando di, attraverso questo, anche se ancora come più che altro un esperimento, un più che appunto determinare o individuare delle avanguardie o chi può essere costruito in questo paese, piuttosto una ricomposizione, quindi più un collegamento tra gli studenti, tra i lavoratori della conoscenza, tra tutto il resto della classe subordinata, se si può dire così. Quindi è questo un po' il nostro punto di vista rispetto a quello che dicevi prima. Sì, ovviamente insomma i motivi polemici, se vogliamo, del libro di Formenti non si esauriscono qui. Ora non voglio, Alessia, coinvolgerti in una discussione che sarebbe interminabile volendo, ma insomma giusto così per invogliare chi ci ascolta a partecipare a questo dibattito di questo pomeriggio, si può citare il fatto che insomma, no, Formenti ha diciamo anche tra i suoi obiettivi polemici i movimenti degli ultimi anni, da quelli ambientalisti a quelli occupy, insomma, fino a arrivare a mettere in discussione il ruolo di internet come strumento in grado di rilanciare, democratizzare, insomma, le lotte sociali, eccetera eccetera. Peraltro, insomma, lo fa anche, come dire, con cioè introducendo, come dire, autori e teorici non certo recenti, perché addirittura recupera e rivisita alcune teorie gramsciane sull'egemonia, insomma, però riattualizzandole, riadattandole a quelli che sono i tempi della modernità, sempre in riferimento al concetto di transizione dal capitalismo al post-capitalismo. Insomma, sono comunque argomenti che ovviamente possono a loro volta essere sottoposti a critica politica, ma certamente molto interessanti, insomma, che spingono ovviamente alla riflessione. Io, Alessia, però vorrei invece incalzarti su un'altra questione che è più, diciamo, vicina, se vogliamo, anche se forse è un po' brutto dirlo così, perché anche le questioni teoriche di cui parlavamo sono assolutamente importanti e per certi versi decisive, ma insomma lunedì c'è questo corteo che partirà da Piazza della Repubblica fino al Campidoglio, e è un po' una prova generale per capire quello che è il comportamento delle forze dell'ordine, ma più che altro l'atteggiamento deciso dal Ministero dell'Interno, che nelle ultime ore si è sbracciato, no, nel dare indicazioni di tolleranza zero rispetto ai cortei. Alfano minaccia addirittura di vietare tutte le piazze. Ecco, insomma, credo che tra di voi, insomma, la discussione abbia acquisito dei fermenti in più in questi giorni, proprio perché c'è questa, come dire, minaccia che incombe sulle prossime piazze. Sì, infatti, guarda, abbiamo pensato di scendere in piazza a livello cittadino, e era proprio quello di sfidare in qualche modo il ministro degli interni Alfano le affermazioni che ha fatto, e che, appunto, come dicevi tu, minaccia di non far più sfilare i cortei all'interno della cosiddetta City di Roma, la vetrina di Roma, e quindi abbiamo pensato di scendere di nuovo in piazza e sfidare, appunto, questo divieto, però allo stesso tempo mettere sul piatto tutte quelle che sono le tematiche che abbiamo portato avanti in quest'ultimo anno, quindi soprattutto con l'insediarsi del governo Renzi, quindi il piano casa, il jobs act, il salva Roma, perché, appunto, contrapponiamo prima di tutto a questo divieto il fatto che all'emergenza sociale si prova a rispondere da parte, appunto, di questo governo con una questione di ordine pubblico, a partire, infatti, dagli sgomberi coatti che ci sono stati nella città di Roma, ma non solo, anche nelle altre città d'Italia. Quindi, diciamo, scendiamo in piazza qui a Roma, ma abbiamo anche dei problemi che sono nazionali, con gli sgomberi ha provato a fare questo, ma anche attraverso, insomma, la risposta che c'è stata il 12 e in ultimo, appunto, questo ha provato a imporre, insomma, questo divieto di sfilare, non l'ha fatto solo lui, ma mi sembra che ci sia anche una disponibilità da parte del prefetto di Roma, di Pecoraro, di fare questo. E credo che io credo che non si possano proprio permettere, insomma, di fare questo, anche se probabilmente lo faranno, perché diciamo comandano loro in questo paese, però bisogna sicuramente scendere in piazza lunedì e sfidare questo divieto e portare sul piatto quello che poi sono veramente i problemi sociali, che non riescono a dargli nessuna risposta, non che ci aspettiamo chissà che cosa, però la risposta non può essere solo appunto quello della forza, perché poi vediamo praticamente un'imposizione anche ai governi locali di quello che sono le direttive del governo. Sono saltati anche qualsiasi dispositivi di mediazione all'interno del territorio cittadino. Quindi c'è proprio una direzione molto dura nei confronti della casa, nei confronti anche degli altri problemi sociali, perché nel momento in cui sferra un attacco così diretto alla casa, che possiamo dire nella città di Roma è la lotta che ha avuto più risalto e più un riscontro nel concreto attraverso decine e decine di occupazioni nell'ultimo anno, rispondendo quindi non solo al bisogno della casa ma anche alla precarietà che vogliono riaffermare e peggiorare con questo primo tentativo del Jobs Act. Che questo è un passaggio importante secondo me, se c'è un duro attacco all'emergenza abitativa, quindi la risposta è solo quella degli sgomberi e degli sfratti, non dimentichiamo nemmeno questa parte, in realtà è un problema di tutti, perché nel momento in cui si alza la testa anche su altro, quindi questo riguarda anche gli spazi sociali, questo riguarda anche le vertenze sul lavoro, questo riguarda qualsiasi persona che in questo paese, in questa città prova a rispondere, a auto-organizzarsi anche alle politiche di austerity, e quindi non è un problema che riguarda appunto chi prova a rispondere attraverso le occupazioni di case, ma in questo momento riguarda un po' tutti, perché il messaggio è chiaro: qualsiasi gruppo, qualsiasi persona prova a auto-organizzarsi e a rispondere appunto al continuo impoverimento che ci stanno imponendo, la risposta è repressione, manganellate, e quindi scendere in piazza il 12 va a sfidare il divieto, ma va soprattutto ad imporre questo, che non siamo disposti a fare un passo indietro rispetto a quello che abbiamo prodotto in tutti questi mesi. E questo sulla casa come per qualsiasi altra lotta che nascerà nel paese nella città di Roma. Quindi la partecipazione al 12 è larga, la partecipazione, io credo che bisogna scendere in piazza proprio per difendere in qualche modo quello che abbiamo costruito e per porre appunto un problema proprio di mancanza di presupposti proprio all'interno di questa città. Quello che viene messo in discussione è proprio un problema di democrazia, perché poi lo vediamo qual è la violenza delle forze dell'ordine, che non riguarda solo i momenti di piazza, appunto gli sgomberi, l'ultimo episodio l'abbiamo visto ai danni di Aldo Brandi, l'applauso che c'è stato del SAP, penso che da ne abbiate parlato abbastanza, quindi io penso che in realtà non potrebbe nemmeno permettersi di alzare la testa rispetto a, perché è evidente, penso che tutti quanti adesso in questo paese si rendono conto di quanto sia sproporzionato questo discorso, di quanto stanno andando al di là le forze dell'ordine e in generale appunto anche il ministero degli interni e chi prova a dare delle soluzioni solamente in questa maniera. Quindi il 12 che può essere la manifestazione di tutti, appunto di tutti quelli che vogliono non solo appunto sfidare il divieto, ma anche per un problema sugli ultimi provvedimenti del governo, che passano attraverso appunto una affermazione di nuova precarietà attraverso il jobs act, come verrà il piano casa con l'articolo 5 che mira essenzialmente a a contrastare la lotta per la casa. Infatti il titolo dell'articolo è proprio lotta contro le case abusive, quindi si è detto tutto. E l'ultimo Salva Roma, che riguarda, non per importanza ovviamente, che riguarda nello specifico la città di Roma, che è diciamo l'emblema di quelle che sono le politiche renziane, quello di imposizione attraverso questo decreto di ulteriore precarietà. Non solo a chi subirà, i lavoratori della dipendenti appunto le municipalizzate subiranno un trattamento peggiore, se non addirittura licenziamenti, ma anche per quanto riguarda insomma gli utenti che andranno il costo sociale grosso, insomma, è vero, è ovviamente ripartito in misura, come dire, uguale tra lavoratori e utenti, essendo questi ultimi la massa poi, no, che compone una città pulsante, una metropoli come quella romana. Insomma, il taglio dei servizi dovrebbe essere, insomma, no, punto attraverso il quale provare a ragionare in termini di aggregazione, coagulo sociale, anche se poi da questo punto di vista stiamo riscontrando delle grosse difficoltà, no, nel rendere operative determinate parole d'ordine. Io Alessia chiuderei qui, se non ricordando il fatto che sarà anche l'occasione per ricongiungersi idealmente a una giornata di 12 maggio di 37 anni fa. Anche allora si sfidava un divieto, ovviamente si aveva a che fare con un movimento che aggrediva in maniera diretta gli assetti societari, e insomma è comunque certamente il modo migliore per ricordare Giorgiana Masi, quello di stare in piazza anche questo 12 maggio, ovviamente attualizzando il discorso rispetto ai divieti che viviamo, insomma, nella nostra quotidianità oggi. Alessia, io ti ringrazio, ricordiamo però l'appuntamento di questo pomeriggio. Sì, alle 17 al lucernario occupato in via delle Scienze 1, appunto di Tepietà di Carlo Formenti con Carlo Formenti, e a seguire ci sarà bravo, l'hai ricordato la cena Notab, per appunto finanziare la trasferta di sabato a Torino. Perfetto, con un solo intervento abbiamo parlato praticamente di tutto, dalle opzioni teoriche alla questione romana, i divieti di piazza, e essendo questa sera anche importante l'appuntamento per raccogliere i soldi e salire su a Torino, ricordiamo appunto anche che c'è questa manifestazione il 10 maggio. Alessia, ciao e a presto. Ciao a tutti e tutte, grazie, ciao. Radio La Rosa. Radio La Rosa.